era questo. Ci siamo e facciamo scherzoni qui. Vabbè, era una scusa, dai, avete ascoltato un po' il nostro background. E nel mentre mi sono perso pure Alessandro, allora non so, per temporeggiare volevo fare un saluto e ringraziare Stefano per il pranzo che ci ha fatto arrivare qui stasera un po' corchi. Qualcuno mi chiami Alessandro, cosa stai facendo Alessandro nell'altra sala? Mi è sparito, ragazzi, questo è una serata, ride, torna ridendo, non si sente niente. Si sente o no, raga? Non sappiamo se ci sentite, se non ci sentite, chissà. Buonasera per la terza volta, amici. Aspettiamo la conferma di Alessandro che ci dà l'ok. Ringraziamo Mauretto per il prestante aiuto tecnico. Chi ha toccato queste cose? Chi ha toccato? Tutti toccano, è tutto un tocca-tocca, è tornato la primavera e si tocca qui a Radio Default. Ci tocchiamo a Radio Default. Questa è bellissima, Maurè, speriamo che qualcuno ci ascolta, che si sente. E si sente? Meno male perché? Niente, vabbè. Vabbè, abbiamo un ritardo, ma si sapeva, insomma, pure io da prima di Whisky Trip. Buonasera, amici. Buonasera. Vi siete ascoltati questi 5 minuti di background? Noi assolutamente siamo pure contenti, perché non vogliamo essere professionali, perché professionale vuol dire lavorare, e noi siamo qui per dire no. No, siamo qui per dire che nonostante tutto ci siamo alla grande. Whisky Trip lotta contro le difficoltà tecniche e vince. E allora, puntatone preparato, che hai combinato? Non devo preoccupare. Prima parte della puntata dedicata al blues rock, agli eredi della tradizione del blues, blues rock, garage rock degli ultimi anni. Nella seconda parte ascolteremo jazz, creative jazz, Chicago. E allora, dato che abbiamo risolto gli inconvenienti tecnici, ci lanciamo in questa nuova puntata e andiamo con il primo pezzo. Sicuro? Non lo so, io mi vorrei riposare 5 minuti, perché cioè, dopo qua vi metti controlla, gira tutti i bottoni sta radio, regà. È stato faticoso questa sera arrivare, iniziare la puntata, ma nonostante tutto facciamo un saluto a Stefano, che ci ha fatto le fettuccine oggi e che ci ha fatto arrivare qui stasera belli corchi, perché a casa di Stefano se vai a pranzo si beve. Grande Stefano, sei dei nostri. Grande Stefano, ascoltaci anche sul sito ogni tanto. Siamo contenti se ci ascolti. Allora, basta chiacchierare musica. Il primo pezzo, loro sono i Black Keys, e il primo pezzo è Heavy Soul, e dall'album di debutto dei Black Keys del 2002, The Big Come Up, che è un disco che ha riportato all'attenzione di molti la scena garage blues rock. E allora iniziamo, perché finalmente ci siamo. Quindi, primo pezzo con Black Keys, Heavy Soul, buon ascolto. Bentornati, non perdiamo tempo, andiamo avanti per recuperare preziosi minuti persi prima. Dagli Stati Uniti, ma di chiara origine italiana, ha cominciato a suonare la chitarra in ambito classico per poi scoprire il blues. All'età di solito 10 anni ha persino partecipato a un tour con il grandissimo B.B. King. Penso di non voler aggiungere altro se non il titolo di questo brano, Blues Deluxe, Joe Bonamassa su Radio Default. Thank you. treat me so low down and dirty. You know what? Your heart must be made out of glass here. Gio Bonamassa. Ma inteso che chitarra, cioè come fischia, inteso che roba. Grande chitarra, sempre grande musica, grande blues qui a Whiskey Trip. Ci trattiamo sempre davvero bene. Prima prima c'erano i Black Keys. Andiamo avanti in questo viaggio nel blues rock, nella tradizione, gli eredi della tradizione blues ai giorni nostri. Joe Bonamassa, Black Keys, in arrivo i Dead Weather, che sono una formazione che è da Nashville. Si formano nel 2009 e tra gli altri suonano questa band Jack White dei White Stripes e Dean Fertitta dei Queens of the Stone Age. Quindi nel 2009, Antonio, caro Antonio, devi sapere che i Dead Weather pubblicano il loro album di esordio dal titolo Whorehound, con questo loro blues rock malato. Noi ci ascoltiamo Bon House. Dead Weathers, bravo Alessandro, perché davvero interessanti. E vabbè, rispondo subito con sentimento, perché Eric Burdon ti dice niente, gli dice facendo di sì, che vabbè, è un cantante inglese noto per essere stato il leader dell'immenso gruppo The Animals, e in seguito anche del gruppo Farquhar, meno noto ma molto interessante, per poi condurre una carriera solista. È stato inserito al 57° posto della lista dei 100 migliori cantanti secondo il Rolling Stone, e ce lo andiamo a ascoltare in una collaborazione davvero interessante insieme ai Green Horse, che sono un gruppo garage rock statunitense formatosi, mi sembra, nel 98 a Cincinnati, in un pezzo davvero splendido, amici. Out of My Mind. First time I saw her was down by the levee. She blew a hole in the door of my brand new Chevy. She ran off with my gold, and now her pockets are heavy. And I can't get her out of my mind. She started out early, she got it all together. Took off with my motorcycle, levels. She's headed for a man she thinks is gonna treat her better. I can't get her out of my mind. Can't get her out of my mind. Sometimes I wish I was blind, but I can't get her out of my mind. A 6-inch pair of heels and a new hair color. I really wanna kill her, but you know that I still love her, and I can't get her out of my mind. She's long gone, but her perfume still lingers. Nothing but trouble, but I guess that fits. I still remember those long, thin fingers. Well, I can't get her out of my mind. Can't get her out of my mind. She can bring eyesight to the blind. Can't get her out. If you really wanna follow her, just follow the money. I hit every pawn shop in town, got the same old story. Son, if your gold is gone, all we can say is we're sorry. But by now, we ain't kidding, it's inside of some pimp's feelings. I'd be better off dead. That's my lifelong savings in some fool's head. But I must admit, she was the best thing I ever had. I hope she's in heaven, or maybe rehab. But I can't get her out of my mind. Can't get her out of my mind. Can't get her out of my mind. The Green Horses with Eric Burdon. E in arrivo invece una coppia di canzoni con la prima con Neil Haggerty, che è un artista del rock sperimentale americano, chitarrista prima nei geniali Royal Tracks e poi nei Blasphemy, Pussy Galore, con il loro garage punk blues. Nel 2001, sì, dopo l'esperienza con queste grandi band, Haggerty ha iniziato una carriera solista sulla rivisitazione in chiave postmoderna delle sonorità blues. Dall'album Plays That Good Old Rock and Roll, che è uscito nel 2002 per la Drag City, un'etichetta di rilievo per l'indie rock americano, ascoltiamo un languido blues che è Gratitude, e subito dopo a seguire White Stripes con dall'album White Blood Cells del 2001, e il disco che li ha portati alla popolarità, al successo, con tre Grammy Awards per miglior band alternative rock, con il loro revival di garage rock, blues rock. Ci ascoltiamo Hotel Yorba, ma prima Neil Haggerty con Gratitude. Thanks a lot. I wanna say thanks a lot. might sound silly for me to think childish thoughts like these, but I'm so tired of acting tough and I'm gonna do what I please. Let's get married in a big cathedral by a priest, 'cause if I'm the man that you love the most, you can say I do at least. Well, it's 1, 2, 3, 4, take the elevator at the hotel you're by. I'll be glad to see you later. All I got inside is vacancy. And it's a 4, 5, 6, 7, grab your umbrella, grab hold of me, 'cause I'm your baby fella. All I got inside is vacancy. Allora, serissimi, non scherziamo. Procediamo con un super gruppo alternative formatosi a Los Angeles nel 2009. Il gruppo è composto niente poco di meno che Alessandro. Sei pronto? Reggiti, perché vabbè, c'è allora il batterista del Grohl, Foo Fighters, Probot e Nirvana. Regà, a memoria, senza leggere lo sapeva. Poi dal cantante chitarrista Josh Homme di Queen of the Stone Age, Q's e Eagles of Death Metal, e dal batterista dal bassista e tastierista, dillo te, non ce la faccio, John Paul Jones, che suonava nel gruppo di Teddy Reno, e hanno fatto anche tantissimi, ma noi lo dovevamo dire, cioè, se lo sanno bene, perché se no, cioè, che stiamo a fare qua? Insomma, parliamo dei Damn Crooked Vultures. E allora, adesso ci spariamo Scumbag Blues. Yeah. E devo dire che Whiskey Trip è una trasmissione molto seguita non soltanto dagli ascoltatori a casa, ma anche dal pubblico in regia. Allora, ascoltatori online, stasera abbiamo i buffi, cioè fate bene, andate a divertirvi perché state, non dovete stare senti a me. Però qua in regia, mezzo metro quadro, fa 68 gradi, stiamo in 16 e noi apprezziamo perché è calore umano e non sto esprimendomi metaforicamente. Bella, regà, vi vogliamo bene che state qui. Grazie. Grande, grande successo. Whiskey Trip va avanti con il grande blues rock e ci sbraghiamo in mezzo alle birre al caldo e si va avanti così. I prossimi sono i Gossip, che è un trio di garage che suonano electrical garage, blues rock, punkabilly da Seattle, sporchi in tutti i sensi, che pensate che la cantante ha dichiarato che i veri rocker non si lavano. E quindi sì, sporchi, grezzi, mezzi marci, come vuole la tradizione, nella tradizione del blues nero di strada. Il pezzone che ci andiamo ad ascoltare si chiama Got All This Waiting. Tornati con tracce che ti pugnalano alla schiena e finiscono a tradimento, così, senza... Ragazzi, è un dramma stasera. Risalutiamo Stefano che ci fa sti pranzi, cioè ci hai stoccato a mezzo, fratello. Noi la famo, ma non vedi, c'è ancora la fettuccina addosso, cioè non... Dio te. Tu comunque eri prontissimo a intervenire. Pronti ci si nasce, Alessandro, non è una cosa che o ci sei o non ci sei. Ringraziamo Stefano per la sua grappa di Bassano del Grappa e andiamo avanti con il prossimo pezzo, che è... Aspetta, sì, tu mazza, hai fatto proprio facile. Allora, m'organizzo e vediamo un po', dai, ci scateniamo un pochino che magari aiuta pure la digestione. Uno dei più grandi esponenti della chitarra blues statunitense, colui che Muddy Waters ha definito la luce guida del blues moderno, un musicista totalmente autodidatta, senza alcuna conoscenza della teoria musicale, suona, canta e compone ad orecchio. Quindi da un live dell'89 ci ascoltiamo la sua furiosa e potentissima Crossfire. Buon ascolto con Stevie Ray Vaughan. We'll be right back. c'è da dire a proposito di Stevie Ray un aneddoto che non tutti conoscono. La notte del 27 agosto del 1990, dopo aver partecipato a un grande concerto all'Alpine Valley Music Theater nel Wisconsin con Eric Clapton, Robert Cray, Buddy Guy e il fratello Jimmy, Stevie sale su un elicottero per tornare al suo albergo di Chicago. Come ha dichiarato in seguito lo stesso Clapton, Vaughan, stanco per il concerto, chiede di prendere il posto di Clapton e partire per primo. Poco dopo il decollo però il velivolo si schianta contro una collina a causa della fitta nebbia e della poca esperienza del pilota in simili condizioni, e nell'impatto, oltre allo stesso Stevie Ray, muoiono il pilota Jeff Brown, i membri dello staff di Clapton, Bobby Brooks, Nigel Brown e Colin Smithy. Nessuno si accorge dell'incidente fino alla mattina seguente, quando l'elicottero non giunge a destinazione. E quindi ci ascoltiamo il miracolato Eric Clapton con Last Fair Deal Gone Down. It's the last fair deal going down. Last fair deal going down. It's the last fair deal going down. Good Lord, on that good Port Island Road. Patty Bell, don't cry this time. Patty Bell, don't cry this time. If you cry about a nickel, you die about a dime. Your money, you're all mine. And I love the way you do. I love the way you do. And I love the way you do. Good Lord, home and girls, Port Island Road. And my captain so mean. Eric Clapton salvato da Steve Ray Vaughan, e in arrivo c'è Sue Foley, una cantante e una chitarrista canadese di Blues Revival. Continuiamo su questi suoni. L'album è Love Coming Down, un disco del 2000 che è il suo sesto album in studio, e ci ascoltiamo la prima canzone del disco che si chiama Two Trains, e subito dopo a seguire i Chuggy Monroe, che sono una band misconosciuta, li conosciamo qui a Whiskey Trip, forse altri due o tre in Australia. Beh, noi penso che magari pure alla madre, ai cugini gli hanno detto, e comunque hanno un gruppo, cioè una diecina ci siamo, penso. Forse sì, loro sono un gruppo della scena indipendente australiana. Suonano un blues molto sporco, molto fumoso, come piace a te. Il pezzo si chiama You Don't Have To Do It, ma prima Two Trains con Sue Foley. the platform. Waiting for my ride. And I wish I had me a good friend. Confide. There's two trains I can't travel. Two trains leaving today. One gonna take me home. One half alive, dead on my feet. I can't seem to get enough sleep. I said too many shares and too many cares. I should let the room get right out of here. I said you don't have to do it. I said you don't have to do it. I said you don't have to do it. I said you don't have to do it. My words cut out. How do I fare? I'll bring my back in. Tre pezzi in arrivo per chiudere questa prima parte della puntata dedicata agli eredi della tradizione blues negli anni 2000. I primi sono in arrivo John Spencer Blues Explosion, che è un trio di New York che sono, come dice il nome, un'esplosione di punk blues, garage rock, grezzo rock and roll. Dall'album Plastic Funk del 2002 ci ascoltiamo Sweet and Sour. A seguire, dopo John Spencer Blues Explosion, abbiamo Jolie Holland, e a chiudere questa prima parte gli All Time Religion. Jolie Holland è una bella cantautrice folk blues rock dal Texas, che si ispira a Billie Holiday, a Woody Guthrie, a Blind Lemon Jefferson. Pubblica per la prestigiosa etichetta Anti, che ha nel suo catalogo grandi nomi del rock come Nick Cave, Tom Waits, Billy Bragg e Wilco. E Julia ha pubblicato il suo primo disco, che si chiama Escondida, nel 2004. di lei ci ascoltiamo Goodbye California. E invece in chiusura vi dicevo gli All Time Religion, che suonano un miscuglio surreale, sperimentale, primitivista di folk, country, rockabilly, blues, noise rock. Sono capitanati da Harrington De Dionisio alla voce, e chitarra elettrica e a clarinetto basso. E una musica sperimentale dove si trovano riletture libere del blues, punk, free jazz, ricordi della follia di Captain Beefheart. E la traccia si chiama Vampire Sushi. E allora, primo pezzo, John Spencer Blues Explosion con Sweden Sur, a seguire Jolly Holland con Goodbye California, e a chiudere questa prima parte gli All Time Religion con Vampire Sushi. Buon ascolto e ci rivediamo, risentiamo fra poco con la seconda parte della puntata dedicata al jazz. Mississippi and the Brooklyn Bridge, don't let the matter in the dead of nights. At the soul I sold, no my loan to me. Well, all right. Inside in crime of a personal kind, I'm about to go out of my mind. I'm just about sick to death of taking breath and walking this line of mine. Now folks that know what's good for them are good at ignoring them, but I just can't put these thoughts down. I'm harrowed and abused and broken and pursued by this notion that follows me around. My heart is hurting, my spirit's burdened. I feel like a liar and a thief for taking air, for being here unwanted. I look for my final. Goodbye. goodbye, California. Goodbye, and I'll be moving on. I sang you my songs, I know I'm wrong. Fare thee well, and I'll be going on. When I'm dead and gone, my immortal home will hold me in its bosom safe and cold. No more desires will light their fires or disturb my immaculate calm. And the birds of the air and the beasts of the soil and the fishes of the desperate sea will know who I am, and our substance will expand as part of everything. As part of everything, my God. As part of everything. And the clouds will roll, and the wind will blow, and the beautiful birds will. Goodbye, goodbye, California. Goodbye to your waving trees, to your succulent wind, and all my friends. Fare thee well. Goodbye. So be it. We'll be right back. siamo circa metà, più di metà, non so, abbiamo perso i conti per via di queste caldissime temperature. Che figo, adesso sta in radio e lamentarsi del caldo, sembra un po' tipo Samuel Jackson a fare la cosa giusta, l'hai visto, sì? Sì, sì, bellissimo. Capito? Quindi immaginatemi così, per chi non mi conosce, tra voi tantissimi ascoltatori, con le sembianze di Samuel L. Jackson, che salutiamo e invitiamo in studio. Quindi jazz, fratelli, jazz, cambiamo un po' genere, andiamo avanti ancora per molti altri pezzi di vario tipo. Allora farei un inizio un po' frizzante sul tropical, ci ascoltiamo una samba che abbiamo già passato in un'altra stupenda versione di Dizzy Gillespie, e ce l'ascoltiamo però stavolta cantata dall'immensa Ella Fitzgerald. E quindi ragazzi, scatenatevi, forza, con questi bacini, mascherata. Thank you. altra traccia che finisce a tradimento, che dice di durare di più ma in realtà dura meno, ma come vedete i miei riflessi d'acciaio non lasciano il buco, insomma. E quindi passati un po' così, un po' latinos a quest'ora, Alessandro, che ti vedo con un'espressione molto caraibica e frizzante. Porello, sei stanca, Alessia Diavita ha studiato tanto oggi, se lamentava Alessandro con me, cioè ragazzi, che tocca fa per campà, diceva. Allora, vabbè, continuiamo quindi latinos slash caraibici. Parliamo un po', scopriamo un grandissimo artista che è Chucho Valdés, che è un pianista, compositore e arrangiatore cubano, è fra i più famosi musicisti cubani di jazz. Valdés proviene da una famiglia di pianisti, in particolare il padre Ramon Bebo. Chucho suona, Alessandro ride, uno vedi, prova a essere serio, mi fa ridere pure a me, stiamo come a scuola, dai, perché ridi, dai, fai ridere anche noi, come dicevano i maestri. Il conservatorio di Lavana. Che c'è il padre? Il padre Ramon. Ramon. Fantastico, ragazzi. No, vabbè, regà, cioè... Così, così, quindi vabbè. Guardate, faccio finta che mi mordo dentro le guance. No, stiamo a ridere, raga, non ci si fa a farlo serio, perché fa ridere pure un po' il nome, Chucho. Che però senti che pronuncia. È un grande musicista e una grande pronuncia caliente la mia in queste situazioni, insomma, mazza. E che dicevo, allora, che Chucho Edita Alessandro suona il pianoforte dall'età di 3 anni e sino ai 6 viene costantemente seguito dai genitori. Dopo, fino ai 9 anni, prende lezioni dal maestro Boffartik. Vabbè, adesso, cioè, vabbè, non... te prego, sto a ridere, fai te. Whisky trip. Comunque, un talento figo. Un bambino prodigio, cazzo. A 3 anni. Minchia. A 3 anni, cioè, ci può suonare il pianoforte, eh? Cioè, non c'hai le dita piccole, come fa? Mi dicono, ho controllato in archivio, che c'aveva anche un pianoforte piccolo. Vabbè, insomma, dopo tutte queste storie, arriva al conservatorio di Lavana. No. Non sapeva Alessandro che c'era il conservatorio a Lavana. Contattiamo anche il conservatorio dove studia adesso Alessandro e chiede di poter essere spostato a Lavana. E vabbè, volevo dire tante cose, regà, non ce la facciamo perché a una certa ci ha presa ridarella. E quindi dai, di sto grande pianista che oggi c'ha 70 anni, insomma, è ancora attivissimo, si dà da fare. E ascoltiamo qualcosa di recente, un bellissimo brano inciso insieme alla cantante spagnola. Mo, ecco, ride pure qua, dillo te, dai, almeno... Ha una cantante spagnola, dai, si chiama Concha Buiga. Io senti che pronuncia nonostante sti nomi un po' così. E allora dai, su, spostiamo Radio Default verso il mare dei Caraibi con Sombras. Andale amici, andale. Lo spagnolo è una lingua troppo allegra, sicuro? Non puoi come fai a dire una cosa triste in spagnolo? Te lo dico dopo la traccia, ci penso, perché mi sa, un'intuizione ce l'ho. E ripeto, dai, Sombras. Quando tu te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el recuerdo de las felices horas cuando tú te hayas ido, amor. Me envolverán las sombras y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis manos, te besará mi boca y aspiraré en el aire a que la luna rosa, cuando tú haya sido amar, me envolverán la sombra. Allora, eccoci tornati nel mentre su questa traccia del grande Ciucio Valdes. Abbiamo deciso che, vista l'estate, vista le temperature, visto tutto, credo già dalla prossima puntata di Whiskey Trip sarà totalmente latinos, tropical, caraibi. Tutte sonorità un po' così, dove la conga tiene il ritmo, la maraca impazza. Che dire, Alessandro, che dire? Ci sarà un cocktail bar qui in sala, sì, per accompagnare la musica. Li faccio io, ragazzi, quindi cioè, ci venite a trovare. Che famo? 2 euro l'uno? Dai, popolare. Sì. E non so se vogliamo finire di dare qualche notizia sulla biografia di Ciucio. No, no, fidati. Dopo aver studiato al conservatorio di L'Avana, ecco che a 16 anni entra a far parte dell'orchestra di musica moderna sotto la direzione di Armando Romeo e diventa un riferimento del jazz cubano. Ecco, siamo tornati seri. Benissimo, e Whiskey Trip prosegue il suo viaggio sempre più a sud, ma prima di questa puntata, che sarà interamente dedicata a queste sonorità, Andiamo avanti con Mual Richard Abrams, compositore, clarinettista, violoncellista e pianista di Chicago. Una figura di grande importanza per la storia del jazz. Le sue composizioni hanno avvicinato il free jazz alla tradizione della musica europea, creando uno stile che è una sintesi e una rivoluzione al tempo stesso, la cosiddetta creative music, stile che abbatte le barriere tra i generi musicali per creare un suono unico, un incontro tra la tradizione del jazz, la musica classica e le avanguardie europee. Abrams ha anche fondato la Association for the Advancement of Creative Musicians, della quale ha fatto anche parte il compositore, sassofonista e filosofo Anthony Braxton, che avremo modo di ascoltare più avanti, e diversi membri della Art Ensemble di Chicago. E allora, per conoscere Mual Richard Abrams, ci ascoltiamo Blue Blue Blue. Thank you. Tornati, siamo. Vi regaliamo gli ultimi due pezzi. Ancora restiamo un po' con voi perché sono relativamente anche lunghi. Io personalmente vado a prendere un po' d'aria fresca perché dopo questa lunga giornata me la sono meritata. E vi saluto e vi lascio con l'Art Ensemble of Chicago. È un gruppo jazz di avanguardia sviluppatosi dall'Association for the Advancement of Creative Music di Chicago. Senti che inglese a quest'ora. Alla fine degli anni 60, e nonostante la morte di due dei membri fondatori, il gruppo è attivo fino al 2006, sia in studio sia in tour. I concerti dell'Art Ensemble sono caratterizzati visivamente dall'uso di costumi etnici, pitture facciali e corporee. Gran parte dei commenti dicevo che gran parte dei componenti sono polistrumentisti e oltre a usare strumenti tradizionali fanno un esteso uso di quelli che hanno chiamato piccoli strumenti come campanelli da bicicletta, campane e una grande quantità di strumenti a percussione ricavati da ogni tipo di oggetto. Queste due caratteristiche rendono ogni concerto una performance visiva e quanto sonora. La loro musica ingloba l'avanguardia, il free jazz, e rilegge e recupera in chiave moderna l'intera tradizione musicale afroamericana. La loro performance sono dei veri e propri live act in cui ogni musicista concorre alle esecuzioni del brano portando le sue idee sonore, i balli, i canti e i variopinti costumi. Detto questo, allora ci vediamo prestissimo ragazzi per la puntata Tropical, magari prendete qualche lezione di ballo latino, bossa nova, salsa, quello che volete fare, perché insomma arrivateci preparati a questa puntata. Io vi saluto e vi do la buonanotte con l'Art Ensemble of Chicago e con un magnifico pezzo che è Funky Echo. Thank you. Siamo davvero arrivati alla fine della puntata. Pensavate che fosse finita? Abbiamo ancora un ultimo pezzo dall'album Virtuosi. Ci ascoltiamo Butterflies, il disco Paul Play con insieme al bassista Gary Peacock. L'album contiene due lunghe improvvisazioni sul tema di Annette Peacock, compositrice americana e moglie del bassista Gary Peacock, che appunto suona nel disco insieme al batterista Barry Altschult. E allora una lunga improvvisazione di 15 minuti dall'album Virtuosi, Butterflies, Farfalle. Buonanotte e arrivederci alla prossima puntata, mercoledì prossimo, sempre su Radio Default. Buonanotte e buon ascolto. Thank you.